questa è la tua vita, nel giorno in cui fini, la guerra appare a tratti, era ancora buio. Stavi fuggendo via, ora il fucile è muto, sembra riposto ormai, ma ancora sento un grido, non ci fu pietà. Quando cadesti giù, certe vite sono prismi che riflettono il proprio tempo e un corteo accorato fu il soffio di un popolo che innalzò la tua vita oltre il suo momento. E ora indugio nel tuo bivacco dove il buio ha preso il tuo posto dentro il bosco che uno sparo. Penso a te, resisto qui con te, ti sento a fianco a me, nel buio. Ti sento a fianco a me, nel buio. E intanto penso a te, resisto qui con te, ti sento a fianco a me nel buio. Intanto penso a te nel buio.